sì che abbiamo un tempo pronunciato, voti che non guardiamo più, strade che abbiamo già partito, fuochi che non accesi mai, poesie che abbiamo un dì legato al cuore, storie, tristi e sorrisi miei. Sento che il giorno sta arrivando, che non si torna indietro, come dicevi tu. Pazzo dolore mio, semmai forse ritroveremo dubbi e perché sopiti mai. Ben venga presto anche un triste ricordo e bruci questo tormento.